Buonasera o buongiorno amici e amiche ascoltatori. Siamo qui con il quarto episodio di Alla Conquista del Gioco. Quarto episodio vuol dire un mese, è volato un mese. E eccoci qua, Pietro e Claudio, come sempre, a parlare del nostro podcast sui giochi da tavola condotto da dimostratori. Oggi, dopo il primo episodio in cui abbiamo parlato di giochi consigliati per gruppi di amici e famiglie, il secondo in cui abbiamo parlato di sorprese a scatola chiusa e delusioni a scatola chiusa, il terzo di Comics Popoli, parliamo di un argomento molto particolare, ovvero non di giochi nello specifico, ma bensì di autori, perché quando si è invischiati nel mondo dei giochi da tavola, dopo un po' ci capita di riscontrare apprezzamenti o comunque opinioni su giochi che sono dello stesso autore, di rincontrare autori già conosciuti e fare: oh, ma guarda, è lui, è lo stesso di, ah, ma quello non mi era piaciuto e questo sì, quello era meglio, oppure sono fantastici tutti e due. Insomma, quindi, come può capitare per i libri, film o quello che è, si può incontrare uno stesso autore e affezionarsi al suo modo di fare, al suo marchio di fabbrica, al suo stile, anche solo alla sua narrativa, come vedremo in questo episodio, in cui abbiamo scelto degli autori che ci piacciono appunto per farvi conoscere loro e il loro operato, e magari anche rivelarvi qualcosa che non conoscete sulla loro produzione o altro. Quindi siamo pronti a iniziare. Claudio, ti passo a te la parola. Allora, stiamo parlando di persone. Non sono abituato a questo. Di solito io parlo di giochi. Vediamo un po'. Come abbiamo già detto, il mondo dei giochi da tavola ovviamente è portato avanti dagli autori, coloro che ogni anno escono fuori con nuovi giochi, innovazioni, nuove emozioni che finiscono i nostri scaffali e possiamo portare con noi ogni sera per divertirci. Quindi, se non fosse per queste bravissime persone, noi non avremmo i nostri giochi da tavola e non avremmo questo continuo espandersi di titoli e meccaniche nuove. Ah, certo. Esattamente. Principalmente, come abbiamo già detto, diciamo che nella zona europea della Germania si prediligono più titoli di un certo tipo, nel senso giochi proprio chiamati con quel termine, quindi giochi German, quindi giochi più, diciamo, di produzione e un po' più di strategia, diciamo. Ci sono invece autori che prediligono più fare giochi più semplici o degli entry level, c'è cioè chi anche fa un po' dei misti. Personalmente io andrei in Francia a Moulin Rouge, poi non so in realtà dove vive il mio autore, ma so che è francese, e andrei a prendere prima di tutti i buon Faidutti, Bruno Faidutti, Il Monsieur volume Faidutti. uno. Le creatore de... Vabbè, il creatore di Citadels, principalmente, che è il titolo che l'ha reso più famoso, uscito nel 2000, se non ricordo male, che ai tempi fu un gran bel successo. Ah sì, vincitore dello Spiel des Jahres nel 2000 o nel 2001, adesso non me lo ricordo, però vabbè, non è importante, comunque l'ha vinto, è stato gioco dell'anno, del più prestigioso premio. Esatto. Perché ho scelto Faidutti? Allora, io generalmente non sono uno che guarda molto all'autore, cioè il gioco lo compro perché mi interessa, mi ispira o perché l'ho provato, ho detto questo è un signor gioco, quindi di solito non mi metto a leggere cosa scritto nella scatola, io guardo l'immagine e me la prendo su. Però devo dargliene atto. All'inizio della mia carriera di giocatore di gioco da tavola, possiamo chiamarla carriera, possiamo chiamare come ci pare. Se non fosse stato per Citadels, forse adesso non sarei neanche qui. Perché è uno dei primi giochi che mi ha colpito veramente tanto. E questo devo dargliene atto al buon Faidutti, perché è un gioco che ha insegnato ad altri titoli che poi sono portati avanti e si sono evoluti. Scusa, Però sicuramente è fondamentale nel percorso dei giochi da tavola, Citadels. specifichiamo, non saresti qui a registrare questo podcast, perché potrebbe essere travisata questa frase, sembra che ti abbia salvato la vita quasi il gioco. Vabbè, magari stiamo parlando di Faidutti, non di Citadel, se non si può mai sapere dalle occasioni. Ok, bene, sì. Sono cose che vengono tenute per puntate più avanti, quindi anche incontri con autori che magari sono tenuti Se nascosti. il Però cliffhanger per il season finale. sì, c'era anche la spiegazione del perché l'oscuro signore vive, ogni tanto compare, altre volte no. Ci sono tante domande a cui bisognerà rispondere più avanti, ma bisogna tenere la suspense, signori. Però ovviamente non l'ho scelto solo per Citadels, perché ho scoperto, come già detto prima, io non guardo cosa è scritto nella scatola, ho scoperto di avere altri titoli di Faidutti, ma è stato un caso. E quindi si vede che è un autore che involontariamente mi piace, cioè, il suo stile, però non me ne sono reso conto che c'era lui dietro certi giochi che ho nella mia collezione, tra cui uno dei suoi ultimi titoli che è Isla Dorada, che è un simpatico gioco di aste. Che effettivamente, se andiamo a vedere, Faidutti ha fatto diversi giochi di aste, quindi non sorprende la cosa. Per esempio, Boomtown o Sì. anche Dragon's Gold, che bene o male è una sorta di meccanica d'aste, anche quello, non Vero, proprio è d'aste, aste, però più o meno siamo lì. un gioco simpaticissimo. È un gioco d'amicizia, quello sì, con i draghi, e poi ha. Un titolo che anche mi ha stuzzicato, che probabilmente a breve sarà la mia collezione, Il Mistero dell'Abbazia, ho scoperto da poco che è suo. È un gioco di deduzione, quello, di investigazione, simpatico. E anche altri titoli tipo Queen Necklace, che è un altro titolo che avevo nella mia wishlist. E giochini di quel calibro. Allora, cosa c'è da dire su questo simpatico uomo? Sicuramente è una persona simpatica, se cercate il suo nome su Google lo trovate molto felice. Se non fosse stato per Citadel, se non sarei a parlarne ora. E la meccanica di quel gioco principalmente è ciò che l'ha portato avanti, e ha fatto in modo che più avanti lui si mettesse a collaborare con altri autori per creare altri giochi, tra i quali alcuni di quelli che ho citato adesso. Effettivamente lui è un autore che tende spesso a collaborare, la maggior parte dei suoi giochi sono collaborazioni. Esatto, cioè Citadel se l'ha fatto in singolo, ma quelli dopo sono principalmente collaborazioni con altri autori. In realtà ha fatto anche altri giochi precedenti a Citadel, però questo è quello che gli ha dato il successo, diciamo. C'è anche da dire che, almeno ultimamente, di solito gli autori sono legati a una casa editrice, come quasi un'etichetta discografica. Le case editrici si prendono questi autori e continuano a produrre i giochi loro. Invece Faidutti è uno che ha prodotto in lungo e largo, non si è mai cioè, non affezionato, legato tanto a una casa editrice, ha fatto per tutti, ha fatto. Sì, ma probabilmente anche perché, cioè, proprio perché si è espanso cioè, ha collaborato con ogni autore, quindi di conseguenza è stato prodotto da diverse case. Sì, Adesso anche non. quello, non è vero. Esatto, e niente, questo è la mia prima scelta, ce ne sarà una seconda, restate in linea, la sentirete forse. E possiamo passare adesso agli altri autori, un po' più di nicchia probabilmente, di Pietro. Ma perché di Nietzsche? Vabbè, allora passiamo al mio autore preferito, che è stata praticamente una scelta obbligata, perché effettivamente se devo pensarci viene per forza fuori questo nome, e il mio autore preferito è per forza di cose, mi scuso per il mio francese, non ho mai studiato francese in vita mia, quindi spero di non dire troppe castronerie, Antoine Bauza o Bauza o quello che è, ovvero l'autore di Seven Wonder, Takenoko, Tokaido, Ghost Stories, Hanabi, Samurai Spirits e non so quanti altri giochi, veramente tanti, che è un autore super prolifico francese che ha avuto l'apice del suo successo con Seven Wonder, e da lì è sempre stata, bene o male, il suo nome è sempre stata una garanzia, anche perché i suoi giochi di solito vincono parecchio tra i premi. Sono stati Speed the Yar, Hanabi sicuro, e Seven Wonder e Takenoko da soli hanno fatto il set di premi. La copertina dell'edizione italiana di Takenoko è veramente una cosa mostruosa, cioè metà della copertina sono solo i premi che ha vinto, anche se questo non vuol dire niente, non è che il gioco diventa No, più. non vuol dire, perché per dire io non guardo cosa c'è scritto nella copertina. No, nel senso, non vuol dire che se il gioco ha fatto incetta di premi è bello, però è giusto per dimostrare che questo giovane autore ha avuto, nella sua carriera ha già avuto tanti riconoscimenti. E sono d'accordo su questa cosa perché tutti i suoi giochi che ho provato, quindi quelli già citati sopra, non ne ho, se non sbaglio non ne ho provati altri suoi, sono veramente dei bei titoli e dimostra, soprattutto Ghost Stories, che è uno dei miei giochi preferiti, Ghost Stories e le sue due espansioni, sono veramente, cioè, solo lui poteva. E quello che volevo dire è che è un autore che si reinventa, perché mentre molti autori hanno un marchio di fabbrica o comunque una meccanica che ritorna spesso nei loro giochi, ogni volta che Bausa fa un gioco è un ricominciare da capo, tutte le volte è qualcosa di diverso. Poi, vabbè, abbiamo notato, ad esempio, anche solo dai titoli, questo suo amore per l'orientalismo, a meno che questo suo amore per l'orientalismo non sia forzato da le case editrici, ma ne dubito fortemente, perché per alcuni giochi si può fare questo ragionamento, ma per altri l'ambientazione è veramente predominante, cioè il gioco è stato fatto per essere quell'ambientazione lì. Sei d'accordo? Sì, trovo difficile regalare il panda dell'imperatore di qualche altro stato. Da più che quello, magari la meccanica della crescita del bambù, intendevo. Mentre ad esempio Anabi, che sì, sono fuochi d'artificio abbastanza orientalizzanti, può essere benissimo un qualsiasi gioco di carte dove ci metti i gattini ed è la stessa cosa per fare le Sì, ma mai metterli insieme ai fuochi d'artificio, se no escono fuori delle robe da Kickstarter. scale. Sì, se ci metti i gatti sicuramente diventa un Kickstarter. E quindi Bauza, secondo me, è un autore che è garanzia. Almeno tutti i giochi suoi che ho provato, tutti mi sono piaciuti. Tra l'altro, il mio compleanno, che è stato da poco, mi è stato regalato anche un gioco di Bauza, che è Samurai Spirits, che è una sua rivisitazione del film di Kurosawa, I Sette Samurai, bellissimo film, dove ha avuto una ottima idea, secondo me, per la meccanica del combattimento, dove c'è una sorta di blackjack reinventato in questo gioco cooperativo. E mi è piaciuto molto. Poi per il resto sto dando un'occhiata agli altri giochi di Bauza che non conosco, e ce ne sono veramente tanti, perché veramente fa 2 o 3 giochi l'anno. Sicuramente il suo più famoso è Seven Wonder, perché Seven Wonder ha vinto e stravinto. E dopodiché c'è Takenoko. Ah, il Piccolo Principe, giusto, ha fatto anche il gioco del Piccolo Principe. Mystery Express, un altro gioco abbastanza importante di Bauza, e così via. Ah, e tra l'altro c'è anche un gioco che tu, Claudio, hai già adocchiato per quando uscirà, giusto? Oceanus È di Oceanus, Bausa, sì, Oceanus, che sì, non sono dovrebbe quasi tutti uscire titoli a di classici. Essen, se non sbaglio dovrebbe uscire a Essen, che tu avevi già adocchiato da comprare, cosa avevi Sì, visto? ma non ho nessun accordo con Bausa, non ho letto il suo nome da nessuna parte, è stato un caso. E invece, tra l'altro, Bauza ha collaborato anche con il buon Catala, altro autore che ha collaborato spesso e volentieri con Faidutti, quindi i nostri due autori scelti si vanno a riscontrare con questo intermediario che è Bruno Catala, altro Bruno. Catala, non Catala, Vabbè, Catan. quello che è, che ne so. Catan. Bruno è Bruno, quello è sul sicuro. E quindi questo Faidutti Bauza che si vanno a incontrare grazie a Catala, che con Faidutti ha fatto un sacco di roba. Dicevi, Faidutti e Catala? Catala, Isla Dorada sicuramente, Boomtown, mentre Bauza e Catala hanno fatto Seven Wonder Duels insieme, un gran successo. E Bowser e Faidutti hanno fatto invece Pony Express. Vedi, alla fine si incontrano tutti. Ma sai, lavorano per delle case, molti lavorano per delle case editrici stesse case editrici, sono tutti francesi e così, sai, è facile. È facile che alle convention si incontrino, abbiano dei riscontri, parlino, si scambiano idee e nascono le collaborazioni. Ok, non parlo nello specifico di giochi di Bauza perché ne parleremo in futuro. Sicuramente in futuro farò una puntata in cui parlerò di Ghost Stories, tutte le sue espansioni, tutte le sue promo, perché io adoro Ghost Stories. Vabbè, che male ha Seven Wonder, scusa. Semplicemente non mi va di parlare di Seven Wonder. Vedremo cosa ne pensa Bowser. Seven Wonder è un bellissimo gioco, è un gioco che ha cambiato le regole del mercato, perché dopo che hanno visto il successo di Seven Wonder hanno cercato di imitarlo tantissimo, però è un gioco che mi ha dato la noia, perché l'anno in cui è uscito ci abbiamo giocato talmente tanto che sinceramente non mi va per niente di rigiocare a Seven Wonder. Beh, ma quello lì è la pecca del successo. Per dire, piuttosto che Seven Wonder, preferisco fare una partita a coso, quello dei pirati volanti. I pirati volanti. Sì, quello che hai te, dei pirati che volano. Ah no, aspetta, non volano. Ok. Ah, ok, tu dici Sea of Clouds, Sea of quindi Clouds, sì sì. che volano. Sea Sì, of va bene. Clouds, esatto, Sea of Che Clouds. sì, lo assomiglia un pochino a Seven Wonder per la meccanica delle battaglie, sì. Esatto, ricordo un po' Seven Wonder e ci ho giocato di meno, preferisco giocare a quello, perché Seven Wonder sinceramente mi ha un po' stufato. Però Però vorrei dire una cosa al riguardo. Penso che questa cosa che dici tu sia legata al fatto che quando un gioco ha un successo è molto facile giocarlo spesso perché molte persone ne hanno nella collezione e lo provano molto spesso periodicamente, quindi è un discorso che si può affiancare anche a giochi tipo Ticket to Ride, per dire, sì, che sicuramente. vengono giocati continuamente e dopo un po' ne risenti, cioè non è un brutto gioco, però giocarlo tante volte dopo un po' È si può anche fare. che noi, avendo un'associazione ludica, quando vengono degli ospiti, devi tirare fuori un gioco semplice che puoi spiegare a tutti, e quindi alla fine giochi sempre gli stessi. Ad esempio, venerdì scorso ho giocato Ticket to Ride, anche a Ticket to Ride, anche a Dixit, a Ticket to Peru. Ride, Dixit, Seven Wonder sono quel livello di giochi che Quindi sono adatti per voler iniziare teoricamente. venerdì scorso, invece che farmi un giocone nuovo da 3 ore, un Battlestar Galactica con tutte le espansioni, ho fatto serata filler e mi sono divertito e tutto, però è stata una necessità. Sì. Potevi optare come ho fatto io con Dungeon Quest, quindi quei classici old school, ma si può L'altro andare anche con questi nuovi titoli. specifica che è Dungeon Quest prima edizione della Games Perché Workshop, questo è un non signor Dungeon quello, Quest, eh. non Dungeon Quest quello nuovo. Un Dungeon Quest con una miniatura sbagliata, quindi abbiamo due miniature dell'arciere, quindi è ancora meglio. Va bene, va bene. Ok, Claudio, prosegui il tuo discorso perché so che volevi parlare di una cosa. No, Sì, Dungeon Quest. non Dungeon Quest. Visto che stasera parliamo di autori, tu volevi parlare anche di editori. Va bene se vogliamo passare sul lato oscuro della discussione, ma no, dai, sto scherzando. Gli editori sono bravissime persone e io ho avuto a che fare con loro e quindi ho avuto questa esperienza che è molto particolare perché io, al di là delle mie oscure origini da oscuro signore, sono sempre stato una persona molto creativa che ha creato una decina di prototipi e ha sempre avuto questa gran voglia di farli provare, giocare e ho avuto anche l'occasione di vedere e sentire l'opinione di editori. E quindi passiamo al capitolo degli editori. Editori. Allora, più o meno 2 anni fa, al play di 2 anni fa, quindi la fiera che il play dov'è che si svolge? A Modena, A come ho Modena, ok. ricordato. Vabbè, ma è stato 2 anni fa. Sì, Lo so che il play è una fiera importante, però. anche nella nostra regione, addirittura. Sì, ma io non sono una persona molto colta in Geografica. geografia, diciamo, sì. Ok, quindi al play di 2 anni fa avuto modo di parlare con la Red Glove, la casa editrice italiana che fa giochi del calibro di Voodoo, Rush and Bash, quindi giochi cartoneschi a temi su, dagli 8 anni in su più o meno, per far provare uno dei miei primi prototipi, un giochino di presa di carte in stile giapponese, quindi non vi aspettate grandi cose, insomma, la classica cosa. Però con una meccanica particolare, perché di solito io, a me piace diversificarmi nei miei prototipi con varie meccaniche stravaganti. E ho visto diverse opinioni, perché è stato provato da diverse persone rappresentanti la Red Glove, e quindi ho discusso un po' con gli editori, ho visto come funziona quel mondo, perché non è così scontato come sembra. Perché parliamoci chiaro, ho avuto anche a che fare con, cioè ho parlato anche, conosciuto persone con progetti amatoriali che volevano comunque produrre i loro giochi. Io ho visto un po' certe idee, ho visto certe linee di pensiero. C'è chi crede che il proprio gioco sia una creatura intoccabile, cioè è stata creata così e non deve essere cambiata per nessun motivo. Se un beta tester ti dice che una regola potrebbe essere aggiustata in un certo modo o aggiungere certe cose, può essere visto con un occhio storto, e già prenderla in questo modo mi sembra l'idea peggiore, perché creare un gioco e volerlo produrre significa, poi torniamo agli editori, per adesso lo sto puntualizzando. Creare un gioco e volerlo produrre significa mostrarlo al mondo, cioè non vuol dire che deve essere tuo in tutto e per tutto. È ovvio che ci verranno certe modifiche, perché non può essere perfetto in tutto e per tutto. Noi parliamo con degli esperti, con persone che di lavoro vendono giochi, quindi la loro opinione teoricamente dovrebbe essere, diciamo, più alla portata in confronto alla nostra, Più perché esperta, ne sanno di diciamo. più, esatto. Ma comunque sia, cioè, l'editore ci mette i soldi, quindi Sì. l'investimento lo fa lui. È ovvio che certe scelte di marketing le debba fare chi ci mette i soldi. Sì, non puoi correre dei rischi e fare quello che ti è stato portato. Ovviamente puoi apportare, devi apportare delle modifiche se necessario, e l'autore deve accettarlo nel caso. Cioè, tu sei arrivato lì, ti dicono che ti producono il gioco, però ti dicono che ci sono certi cambiamenti, lo devi accettare, perché il tuo obiettivo lì era arrivare col tuo gioco, non arrivare con l'idea del io l'ho fatto così e deve essere così. No, No, la tua idea era portarlo al mondo. e soprattutto l'obiettivo di questa produzione è fare soldi, cioè, e quindi fai diverso. Se tirano i pirati, fai un gioco di pirati, se tirano i vampiri, fai un gioco di vampiri, è così che va. Esatto, e in quel momento mi è stato detto, mi sono state dette diverse opinioni sul fatto che l'ambientazione poteva essere modificata in qualcosa di più semplice, magari dato ai bambini. Hanno detto che i loro giochi di punta, principalmente, ce n'era uno sulla cucina, quindi magari si poteva cambiare in qualcosa di simile, o su qualche ambientazione più fantasy. Però sono state opinioni diverse, e alla fine sembra non sia stato trovato, diciamo, D'accordo. non è stato trovato D'accordo. un accordo con il gioco, e quindi non è stato prodotto, ma l'esperienza c'è stata, questa è la cosa importante. Ho visto come funziona parlare con degli editori. Anche quest'anno ho avuto un'esperienza con la Raven, che sta a Lugo, che in Italia distribuisce giochi del calibro di Dead Winter e Mice and Mystic, per dire. Non E ho avuto anche lì un piccolo colloquio dove ho fatto testare un altro mio prototipo, e mi sono state dette diverse cose sui costi di materiali, cose molto legate anche alla vendita del gioco. Quindi, per dire, il gioco non deve essere troppo imponente se è il tuo primo gioco, perché se è un investimento bello grande, bisogna anche cercare di pensare a certe cose. Sempre anche su cambiare certe meccaniche o ambientazioni, rivedere certe cose, presentare un buon prototipo, portarsi avanti, andare a delle fiere. Ci sono un sacco di cose da guardare, e gli editori non sono lì per, diciamo, cioè non è che ti sbattono la porta in Sganciare faccia. l'assegno e basta. Sono lì, lo testano, ti dicono la loro opinione chiara e tonda, ma ti danno anche dei consigli. Quindi, parlando di editori, se qualcuno ha idea di creare giochi da tavola, o comunque vuole provare, penso che non sia nessun problema. Se siete nella zona dove c'è una casa editrice, provateci, non costa nulla. Al massimo vi risponderanno che in questo momento potrebbero non avere occasione o sono impegnati, però almeno provarci non penso che costi niente. L'unico sforzo da fare è inventare il proprio gioco e testarlo prima di portarlo, testarlo bene perché è importante. Ok. È stato molto interessante, quando siamo andati dalla Raven, vedere come funziona all'interno una realtà come quella. Visto Sì. che stiamo parlando di questo, per chi è interessato a produrre il proprio gioco, ci sono molte possibilità che si possono esplorare. Ad esempio, molte case editrici hanno un form sul loro sito da compilare per mandare il vostro prototipo e cose simili. Ci sono case come l'Amigo che cercano sempre giochi di carte, o anche la Da Vinci che tutti gli anni organizza il premio e il concorso per il gioco di carte che poi verrà prodotto e che si tiene a Lucca e così via. Quindi in realtà bisogna tenere gli occhi aperti e informarsi piuttosto che fare un Kickstarter e incrociare le dita. Sì, bisogna mettersi in gioco perché sennò il gioco non esce mica fuori dalla nostra testa. Tanto non costa nulla, alla fine si esce fuori con una bella esperienza e a volte anche con idee in più o comunque con degli ottimi consigli. Quindi se veramente vi interessa la cosa, provare, provare, crederci, non troppo perché nel caso vada male bisogna tirare avanti. Riprovare nel caso, comunque, ma comunque non, io stesso non sono uscito con delle delusioni, anzi, quindi. Tra l'altro vorrei anche spezzare una lancia a favore degli editori che, oltre all'essere sempre alla ricerca di giochi, comunque sono anche molto disponibili perché al Play, su tutti gli editori a cui abbiamo chiesto, un attimo di tempo per parlare di un prototipo, nessuno ha detto di no. Hanno semplicemente, Massimo, detto tornate verso il pomeriggio quando c'era meno gente, che avevo tempo, e tutti hanno dedicato del tempo, veramente tutti gentilissimi. Anche editori che, ad esempio, non erano neanche interessati a quel genere di gioco, comunque gli hanno dedicato del tempo. Sì, esatto. E quindi a Questo punto di voi vista. aspiranti creatori di giochi da tavola, se volete mettervi in gioco, fatelo. Non c'è niente di negativo che può succedere, insomma. Va bene. Da questo punto di vista è un bel ambiente, non è come il mondo dei videogiochi o dei libri, dove tutti pensano di essere migliori di tutti e sono pronti a rubare soldi. Qui invece è tutto, essendo un ambiente piccolo, quello dei giochi da tavola, con bassi numeri, è quasi casalingo, cioè si parla quasi di parlare con persone al proprio livello, anche se comunque sono investitori sostanzialmente. E quindi non è come parlare con il proprietario di una multinazionale. Va bene. E, ok, allora adesso che abbiamo parlato di questa parentesi, torniamo agli autori perché io ho un altro autore preferito che diciamo era il mio autore preferito prima di scontrarmi con i giochi di Bauza, ma continuo comunque ad ammirare tantissimo questo autore che è un altro francese, se, chiedo ancora scusa per la pronuncia che verrà. Ed è Christophe Bollinger, ovvero l'autore del bellissimo Dungeon Twister. Oh. Allora, Bollinger, di Bollinger ho provato Dungeon Twister, Archipelago, altro gioco bellissimo, e Difference, che invece è un gioco abbastanza normale nella media. Allora, Dungeon Twister è probabilmente uno dei giochi scacchistici più belli e completi che ci sono sul mercato dei giochi da tavola. Questo gioco, principalmente da due giocatori, poi dopo con un'espansione può cambiare questa cosa, ma è sconsigliabile, in cui i due giocatori hanno un loro party che scelgono inizio partita di avventurieri, con cui devono fare un tot di punti vittoria per vincere. I punti vittoria si ottengono portando i propri avventurieri al di là del dungeon, quindi uscendo dall'entrata dell'avversario, oppure uccidendo personaggi dell'avversario. Solo che il gioco è basato totalmente sull'abilità. Giocando il gioco base senza espansioni non c'è per niente fortuna. L'unica, se proprio vogliamo, fortuna è come a inizio partita vengono disposti i tile del dungeon, ma non è fortuna perché cioè, non è una questione di fortuna. È semplicemente. Non è che c'è un tile migliore dell'altro, almeno nel base. No, anche perché sono gemelli, quindi cioè, puoi giocare anche su questo. Sì. E la particolarità del gioco è che i tiles del dungeon che lo compongono, questi quadrati, possono ruotare, perché in alcune stanze ci sono delle ruote con cui ruotare le altre stanze. Questa idea l'autore ha avuto guardando il soffitto della sua camera da letto e vedendo questi quadrati sul soffitto, queste piastrelle, immaginavo di ruotarle, ha avuto l'idea per Dungeon Twister. È molto eccentrico Bollinger, è questo surfer snowboarder, è molto particolare come motore di gioco. E Dungeon Twister base è veramente un gioco strategico. Dopodiché abbiamo le varie espansioni, che posseggo tutte tranne le ultime due che sono uscite solo in francese, quella sul ghiaccio e quella sui boschi, quelle due non le ho. Per le altre posso dire che la prima espansione è abbastanza nulla. Sono d'accordo. Aggiunge dei eroi abbastanza sottotono che comunque non sceglieresti mai al posto di quelli del base. La seconda espansione è quella per giocare in 3-4 ed è Esatto. snatura completamente il gioco. Se vuoi trasformare Dungeon Twister in un gioco così per passare una serata tranquilla, ci può stare, ma non è più un gioco strategico perché dopo entrano in scena cose come i kingmaking, più giocatori che se la prendono con uno e così via. Poi abbiamo l'espansione Firewater, che probabilmente è la meglio riuscita. Firewater è bellissima, un'espansione veramente bella. Poi abbiamo l'espansione dell'oscurità, che anche quella è molto bella. E Firewater e quella lì sono sicuramente le due che consiglierei l'acquisto perché aggiungono meccaniche veramente interessanti. E dopodiché abbiamo Mercenari, che è un'espansione che non mi piace per niente perché ha tutti eroi che si basano sul combattimento e in più aggiunge delle meccaniche come le trappole che sono un po' forzate. E poi ci sono le due espansioni, come avevo detto, che sono uscite solo in Francia, che sono quella sui ghiacci e quella sui boschi. Poi ci sono svariate promo e una versione rivisitata del base che si chiama Dungeon Twister Prison, dove praticamente vengono aggiunte le miniature della Ferris Miniature e un nuovo eroe che è il Moloch, mi sembra, il colosso. Dopodiché, oltre a Dungeon Twister, dicevo Archipelago, che è un gioco che mi è piaciuto tantissimo quando ho giocato, però purtroppo sono passati degli anni e non me lo ricordo più così tanto bene da poterne parlare, ma ricordo che era veramente bello Archipelago. E Difference, che come dicevo è un gioco molto semplice in cui i giocatori devono trovare le differenze nelle carte, tipo i giochi della settimana enigmistica trova le differenze, però in versione competitiva. E poi di Bollinger volevo segnalare un suo gioco molto particolare, che è il suo primo gioco, A Dog's Life, questo simulatore di vita da cani, che adesso quest'anno esce il remake, perché la versione originale era diventata introvabile, era del 2001, dopo 15 anni esce la nuova edizione. Come autore principalmente no. Solo Dungeon Twister, prevalentemente dell'Asmodee, che stranamente tra l'altro Dungeon Twister non ha un'edizione italiana, eppure è un gioco che ha venduto molto. Ah, un altro gioco che esce quest'anno di Bollinger, tra l'altro, è For Gods, che sembra molto interessante. Hai qualcosa da segnalare, Claudio? No, con Bollinger non... Non ho altro da dire. Sono anche un gran fan di Dungeon Twist. Ok, bene, bene. Direi che non ho altro da aggiungere sugli autori. Altri autori da segnalare? Ah, beh, una cosa che possiamo dire è che noi, con le nostre associazioni, Tana dei Goblin, Forlì Cesena prima e Area Games adesso, oggi, abbiamo ospitato molti autori e abbiamo conosciuto di persona Mario Papini di The Vulgar Eloquentia e Siena, abbiamo conosciuto McGertz, i coniugi. Zanguo? I coniugi Zanguo, Sì, no, vai, i creatori di i Zanguo. creatori di Zanguo anche di recente, e Angelo Porazzi, e quindi Abbiamo avuto anche Ignacy. Ignasti, è vero, Ignasti, ecco, un altro autore che volevo parlare è Ignasti, che anche lui è uno che ci becca parecchio, perché Colonie Imperiali è bellissimo. Colonie Imperiali, poi ricordiamoci di lui per XCOM, per The Witcher, grande autore. E niente, stavo dicendo che abbiamo ospitato molti autori, e tutti gli autori che abbiamo ospitato sono persone alla mano, tranquille, veramente simpatiche, di compagnia. Tutto qui. Allora, finito questo episodio, dove abbiamo parlato un po' così, saltando di palo in frasca, di argomenti un po' generici, la prossima settimana torneremo con un tema un po' più classico. Sì, per voi affezionati, basta parlare di fiere, di persone. Torniamo sui giochi prossima settimana. Quindi, se volete che parliamo di un determinato argomento, fatecelo sapere commentando su YouTube, sulla pagina Facebook dell'associazione Area Games, o dove volete voi. E noi ci vediamo allora all'Area Games questo weekend che viene, ovvero un secondo che apro il calendario, 17-18 settembre, sarà a Faenza Ludens, la fiera ludica di Faenza, in cui ci saranno tutte le associazioni della nostra provincia. Forlì e Cesena e provincia di Ravenna, e quindi ci sarà veramente per toccare per tutti i gusti, non mancate.